E innanzitutto come si chiama? Mi chiamo Lino Prezzi, ci vuole anche cognome. Ok. Prezzi è una delle famiglie più antiche del paese. Anche mio nonno si chiama Prezzi. Ecco, io ho tutta la genealogia dal 1400. E quanti anni ha? Però. E 84? Eh sì, sono tanti. E da quanto vive qui a Lizzara? E da sempre Tutta la sono vita. nato qui, guarda, lì di fronte all'oratorio, e continuo ad abitare lì. È bello stare qua a Lizzara. Sì, io mi trovo benissimo. Anche se il paese è un po' cambiato, ma mi trovo sempre bene. E Dimmi. cosa ne pensa? Cosa? Che perché è cambiato? Come vedi, ormai tutta la società è cambiata. Una volta il paese viveva sulla campagna, non c'era la zona industriale, era tutta la campagna, anche i miei nonni, io andavo con mio nonno Ernesto, però tutti lo chiamavano Ernesto, in campagna, con i buoi, l'aratro, non c'erano i trattori. Io il primo trattore l'ho visto in una fiera a Mori che avevo avuto 12-13 anni. Era un trattore a tre ruote addirittura, non a quattro. Ecco. E E cosa ne... dopo, sai, la zona industriale premeva per impiantare, un po' alla volta hanno distrutto tutta la campagna e adesso vedi che non è rimasto più niente. Già. E ci sono le fabbriche. Le fabbriche hanno dato lavoro, qualche famiglia si è anche arricchita perché lavora il papà e la mamma, che una volta non lavoravano, le mamme, erano tutte a casa. E nella stessa famiglia non solo c'erano le mamme, il papà e i figli, ma c'era spesso e volentieri anche qualche zio o qualche zia, che nubile, io, ecco, che non si erano sposati, e allora convivevano lì. Ecco, proprio in questa casa qui di fronte, io mi ricordo che c'erano due zie anziane che vivevano assieme ai nipoti.